24 mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 18 minuti e 27 secondi, la terza parte di 24 mattino. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Maria Latella, eccoci, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti, agli ascoltatori, e buongiorno a te, Simone. Ascoltatori e ascoltatrici che ci possono raggiungere, come sempre, al 349-238-6666 è il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio. Potete mandarci i messaggi su quel che volete, su tutti gli argomenti che vi interessano, chiamarci all'800-2400-24. Più avanti, intorno alle 8.30, ospiteremo Gaetano Manfredi, neo ministro dell'Università e della Ricerca. Insomma, ci faremo raccontare la sua prima intervista radiofonica. Sì, direi, prima intervista radiofonica, e ci faremo raccontare un po' come la vede, come intende gestire questo ministero. Intanto, Maria, io so che volevi ricordare anche tu Giampaolo Pansa, che hai conosciuto, no? Sì, vorrei ricordarlo con l'energia che traspariva dalla nostra ultima telefonata. Mi aveva chiamato prima di Natale, qualche mese fa, con Pansa ci conoscevamo da tanti anni, anche io insomma sono cresciuta un po' nel suo mito, lo leggevo sull'Espresso, e nella nostra ultima telefonata mi raccontava dei suoi progetti. Quindi è stato un giornalista fino all'ultimo giorno della sua vita. Stava scrivendo un libro, non ne dirò l'argomento perché appunto non è mia abitudine condividere le telefonate personali, ma lo ricordo proprio con questa straordinaria energia e voglia di continuare il mestiere che è stata la passione della sua vita fino all'ultimo momento, con il validissimo supporto e sostegno di Adele, la sua compagna, alla quale va in questo momento il mio affettuoso abbraccio. E credo che tantissimi giornalisti e non tantissimi lettori siano in questo momento rattristati per questa scomparsa. Io a Giampaolo Pansa devo soprattutto aver imparato una cosa. Leggevo da giovanissima cronista quello che lui scriveva anche nel libro Carta Straccia, e il concetto che ha sempre tenuto a ricordare è che i giornalisti hanno un solo padrone, i loro lettori, o nel caso della radio i loro ascoltatori, nel caso della TV i loro spettatori, o insomma chiunque ci segue e ci legge. Può essere retorica, ma negli anni ho imparato a constatare che è davvero così, nel senso che se tu hai un rapporto con chi ti segue per tanti anni, beh, quella è l'unica forza che hai rispetto a tanti poteri che invece vogliono, come dire, incidere anche sulla tua libertà imbrigliare. Grazie Giampaolo. Imbrigliare il mestiere. Ti porterei, cara Maria, in apertura di questa settimana, in una data non particolarmente fortunata secondo alcune tradizioni, è proprio il lunedì 13 la data, insomma una data che porta sfortuna. Il Partito Democratico si riunisce in conclave in un'abbazia nel Reatino per provare a rinascere, lanciare quello che Zingaretti definisce così, sentiamolo. Io vengo da una campagna elettorale in Emilia e in Calabria da alcune ore, ho pranzato in Emilia Romagna, vinciamo le elezioni e poi il congresso, che sarà un congresso di grande apertura, di grande rinnovamento, per non costruire un nuovo partito, ma un partito nuovo sì, più aperto, più coinvolgente, perché è sempre più chiaro che l'alternativa alla Lega è il Partito Democratico e quanto di nuovo dobbiamo e vogliamo organizzare intorno al PD. Il che vuol dire, in sostanza, cara Maria, tiriamo dentro le sardine e tiriamo dentro l'EU. La metto un po' brutale. Ma sai, io ho l'impressione che noi stiamo valutando ancora la politica, e in particolare la politica italiana, con gli occhiali degli anni passati. In realtà, anche quelli che dicono il PD torna a sinistra, in realtà diciamo gli eventi recenti ci hanno semplicemente fatto capire che si torna a un bipolarismo. Il momento delle terze forze con il Movimento 5 Stelle, che nelle aspirazioni e nelle ambizioni di Luigi Di Maio intende fare ancora l'ago della bilancia, mi pare che venga in qualche modo superato dalla necessità degli elettori di capire con chiarezza da che parte stai, da che parte sta il Partito Democratico su tanti temi. Ricordo peraltro che finora, in questi ultimi anni, il Partito Democratico si era caratterizzato soprattutto sulla questione dei diritti, cosa che costa poco in termini economici e, come dire, funziona sempre. Ma come ha ricordato Romano Prodi, un partito di sinistra non se la può cavare così facilmente soltanto con i diritti, perché alla gente quello che interessa è che cosa scegli in materia economica, in materia di sostegno ai lavoratori, in materia di sostegno alle imprese piccole e medie. Lì vogliono capire dove sta il Partito Democratico, così come gli elettori di centrodestra vogliono capire dove sta la Lega su i temi che sono più cari a quella parte di elettorato. Dunque, come dire, le interviste o i commenti che ora, dopo il conclave del 13 e 14, useranno, secondo me, una terminologia vecchia e superata per dire il PD va a sinistra. No, il PD cercherà il Partito, ma qua non è una questione di sinistra, è una questione di imbarcare gente nuova che si è vista sulle piazze. Penso per esempio appunto alle sardine, che fanno qualche distinguo, però qualche segnale positivo in questa direzione lo danno, dai, su, insomma, l'obiettivo è raccogliere un po', oggettivamente, un po' più di consenso sul tema dei diritti. Ma certamente poi, sai, le sardine sono nate per dare una scossa all'elettorato di sinistra che non andava più a votare, magari a quell'elettorato di sinistra che nelle ultime elezioni ha votato 5 Stelle, quello è evidente. Le sardine non so quanto futuro avranno, adesso francamente non mi spingerei a fare previsioni, esistono ora, servono proprio per risvegliare quell'elettorato di sinistra che sarebbe stato forse a casa ora nelle prossime elezioni in Emilia, poi vedremo che futuro avrà. Ma ripeto, non è che le sardine sono il movimento nuovo, almeno secondo me, che si trasformerà poi in partito e avremo l'ennesimo piccolo partito accanto a tutti gli altri che sono nati o che possono nascere in futuro. Non credo che questo sia il futuro dell'Italia, anche se la nuova legge elettorale che sembra profilarsi. Il proporzionale favorisce. Qualcuno comunque il marchio a un certo punto se lo prende, si chiamerà acciughe, si chiamerà sardine, come ti pare, e ficcherà il proprio simbolo da qualche parte. Oh, ce l'abbiamo Peter Bescapè, la voce dell'Azzolina, della neoministra dell'istruzione, perché il fine settimana si è caratterizzato anche per questo problema, che oggi lo troviamo sulle pagine dei giornali e non solo. Il tema qual è? Il quotidiano La Repubblica ha tirato fuori questa notizia secondo la quale le prime tre pagine di questa relazione di fine tirocinio dell'Azzolina, che poi è stata di fatto l'abilitazione all'insegnamento, contengono parecchi passaggi ripresi da alcuni manuali, pari pari, senza virgolette e senza citazione. Sono solamente le prime tre pagine, perché le prime tre delle 41 sono disponibili. Il centrodestra, l'opposizione, dice adesso insomma si dimetta, succede in tutti i paesi, è successo anche in Germania per un fatto simile. Azzolina replica così. Sentiamola. Non fatevi prendere in giro, non è né una tesi di laurea, né plagio, né nulla, e ho letto tantissime sciocchezze in queste ore, ma d'altra parte non mi stupisce mica che Salvini non sappia distinguere una tesi di laurea da una tesi di fine relazione di un tirocinio. SIS non ha mai studiato in vita sua, sarebbe strano se le distinguesse. L'unica cosa che mi dispiace è dover parlare qui da Auschwitz. D'altra parte, l'anno scorso il ministro leghista Bussetti non si è presentato, era a maggior ragione, era importante che io fossi qui oggi. Come lotta l'Azzolina, ma vedi, purtroppo, e mi dispiace citare i precedenti che forse qualcuno ha dimenticato, non mi risulta che ministri o politici si siano dimessi per eventi per i quali all'estero i ministri si dimettono. In Germania Gutenberg, che fu trovato appunto con una tesi di laurea in parte copiata, si dimise. In Italia abbiamo avuto il precedente della ministra Marianna Madia, anche lei accusata di aver copiato una parte di un studio che era stato presentato, ora non ricordo più per quale evento, per quale questione, ma anche lì ci fu una lunga polemica portata avanti da alcuni quotidiani, ma non si arrivò ad alcuna dimissione, per cui se vuoi la mia previsione non succederà niente. Non succederà niente, vedremo un pochetto. Di certo, diciamo così, Azzolina farebbe bene. Di certo Azzolina secondo me farebbe bene a rendere pubblica questa relazione complessiva nelle sue 41 pagine per poterla rendere disponibile e far capire effettivamente agli elettori quanto c'è, no, di suo e quanto c'è di altri. Una pausa. Mattino. Poi ci scrive un'ascoltatrice: il dramma della politica italiana, un ascoltatore, che nessun partito finora ha espresso una prospettiva per il futuro, ossia cosa sarà dell'Italia fra 10-20 anni. Secondo me è un po' il grande tema di fondo, no? Ed è un tema di fondo quello della prospettiva un po' più a lungo termine, tra 10 e 20 anni, che riguarda da vicino il mondo dell'università e della ricerca, della quale ospitiamo il ministro Gaetano Manfredi. Buongiorno ministro, eccoci. Buongiorno a lei. Maria, inizia tu, vai. Buongiorno ministro. Non c'è dubbio che il suo ministero, così come quello dell'istruzione diretto dalla ministra Azzolina, siano le chiavi per capire dove andrà l'Italia. Mi pare anche che lei, proprio qualche tempo fa, nel suo ruolo di presidente della conferenza dei rettori, lamentasse che questa legge di bilancio non fosse particolarmente attenta con misure relative all'università. E proprio la mancanza di risorse in generale al mondo dell'istruzione ha causato le dimissioni di Fioramonti. Le chiedo, nell'accettare di diventare ministro dell'Università e della Ricerca, lei ha parlato con il Presidente del Consiglio, col Ministro Gualtieri, di come trovare queste risorse? Perché mi pare che ci sia consapevolezza a questo punto che l'Italia non riprende la marcia soltanto guardando alla produttività, ma guardando appunto sul lungo periodo, i prossimi 20 anni, e sulla formazione dei suoi giovani. Sì, questo è il tema centrale del paese: investire, ma anche programmare proprio nei confronti dell'innovazione, della ricerca e della formazione dei giovani. Sì, quando ho accettato, ho parlato col presidente Conte. E abbiamo convenuto che è necessario avere molta attenzione su questo comparto, programmare, fare delle iniziative subito, programmare degli interventi di tipo pluriennale, anche per dare certezza ai giovani e a chi opera nel campo della ricerca e della formazione, e sono confidente che con la collaborazione di tutto il governo riusciranno a dare dei segnali subito e nel medio termine. Quindi quattrini ne arrivano presto, Manfredi, scusi la brutalità. Mi auguro di sì, che qualcosa si possa fare subito. In che dimensione? Ma questo non glielo posso dire ancora, diciamo, oggi è il primo giorno in cui mi sono insediato, quindi appena avremo modo tecnicamente di poter affrontare il problema, sicuramente potremo dare delle risposte concrete. Ministro, non si danno mai i voti ai propri predecessori, ma lei è in una situazione diversa perché fino a pochi giorni fa era, appunto, l'abbiamo ricordato, presidente della conferenza dei rettori. Come è stata gestita la questione dell'università e della ricerca durante la stagione Fioramonti? Ma io credo che il ministro Fioramonti abbia sollevato il tema di una maggiore centralità della politica dell'università e della ricerca con grande forza, quindi io do un giudizio positivo al suo impegno e credo che, diciamo, l'iniziativa che ha preso anche in altri campi, l'attenzione sui temi ambientali, una maggiore apertura del Ministero rispetto a una serie di questioni legate anche all'internazionalizzazione posizioni siano stati sicuramente delle posizioni positive. Allora, lei, Manfredi, ha guidato una università del Mezzogiorno. C'è un problema storico di divario anche di risorse, no? Di risorse fornite alle università, tra le università del nord e le università del sud, e tra le università anche in termini di dimensione, no? Con le università più piccole, ovviamente, che ricevono di meno. Dico, naturalmente rapportato al numero di studenti, perché è chiaro che poi le dimensioni universitarie sono diverse. Su questo fronte avete intenzione di intervenire in qualche modo? Si è fatto un'idea di come si potrebbe intervenire? Perché Fioramonti su questo mi sembra che fosse abbastanza netto, no? Con l'intenzione di procedere ad una perequazione più intensa tra gli Atenei del Nord e degli Atenei del Sud, quasi prescindendo, se mi consente, dalla poi qualità scientifica prodotta. No, io credo che, diciamo, la qualità sia sempre un fattore di valutazione estremamente importante. Tutto il sistema nazionale è complessivamente sottofinanziato. Chiaro che noi abbiamo delle situazioni particolari, io penso ad esempio alle università, alle piccole università nelle aree interne, che hanno una funzione molto importante, perché noi stiamo vivendo in Italia un continuo spopolamento delle aree interne, una concentrazione nelle grandi aree metropolitane della maggior parte delle iniziative. Quindi è importante che quando noi guardiamo al tema del sostegno dell'università ci ricordiamo che l'università è una grande infrastruttura nazionale che ha proprio il compito di tenere insieme il paese, di dare le uguali opportunità a tutti i giovani, indipendentemente dal posto dove sono nati o dove vivono. Quindi io credo che degli interventi mirati insieme a un maggiore finanziamento del sistema possono consentire di ridurre parzialmente questi divari, ma soprattutto di intervenire in quelle che sono le aree più critiche del paese, che poi non stanno solamente al sud. Voglio ricordare che gli squilibri sono in tutto il paese, e fare in modo che l'università diventi un fattore unificante e non un elemento ulteriore di divisione. E questo... Ministro... Prego, prego Maria, prego. Volevo ricordare al Ministro quello che citavamo prima, Simone, prima che arrivasse con noi il Ministro Manfredi, vale a dire il caso che riguarda questa tesina del Ministro Azzolina che conterrebbe stralci copiati da fonti non citate. Che consiglio darebbe, Ministro, alla sua collega anche sulla base del fatto che, appunto, come presidente della conferenza dei rettori, vi sarà capitato in passato di analizzare questa questione, no, delle tesi copiate, eccetera. Che consiglio dà alla sua collega ministra? Diciamo, io non ho avuto ancora modo di parlare con la ministra Azzolina, perché lei è fuori Italia, quindi io credo che la cosa migliore, la cosa più logica, è che sia lei, quando appena rientra, a poter chiarire la questione. E valutare quindi anche quelle che sono state, diciamo, quella che è l'importanza di questa tesina, che credo sia legata a un corso di perfezionamento che era stato fatto. Quindi dopo che avrò modo anche di parlare con lei, credo che mi posso fare un'idea più chiara di quella che è la questione. E chiedere direttamente a lei. A proposito di quello che ci diceva prima in risposta alla domanda sul finanziamento delle università piccole, ci scrive un ascoltatore, dice: siamo messi malissimo, vanno valorizzate le eccellenze, non gli atenei sotto casa. Dice: come si può pensare di essere competitivi con atenei di piccolissime dimensioni? Questo è un po' un tema, Manfredi, non ce ne sono troppe di università in Italia? No, guardi, noi spesso viviamo un po' di luoghi comuni, perché in realtà il numero di università che è in Italia non è assolutamente superiore alla media europea, anzi in fondo inferiore, se noi ci confrontiamo con la Germania abbiamo meno atenei. Il tema è che l'altra cosa che dice ovviamente l'ascoltatore, è chiaro che noi dobbiamo valorizzare l'eccellenza, ma un paese come il nostro, che ha 1,5 milioni di studenti universitari, questo parliamo di questi numeri, quindi un grande numero, che però è anche la percentuale più bassa, una delle percentuali più basse di Europa. Noi dovremmo mirare a superare i 2 milioni di studenti universitari per poter entrare in una media europea che sia accettabile. Deve avere un sistema universitario diffuso che salvaguardi le eccellenze, ma garantisca poi anche il diritto allo studio in tutte le parti d'Italia. Ministro, sono sempre più numerosi i giovani italiani e non solo, europei, che scelgono degli atenei in Olanda. Questo perché? Perché l'università olandese costa relativamente poco, molto poco, offre degli standard educativi di altissimo livello e soprattutto le lezioni sono tutte in inglese, quindi non c'è lo svantaggio della lingua e un italiano che sappia parlare inglese può studiare in Olanda, così come può studiare un francese, un norvegese, eccetera. Qualche anno fa un prestigioso ateneo milanese, se non vado errato, il Politecnico, cercò di introdurre le lezioni in inglese e ci fu la sollevazione di molti dei docenti, i quali, col pretesto che così viene meno l'italianità, eccetera, in realtà nascondevano il fatto di non conoscere bene l'inglese. Lei non crede che l'università italiana si avvantaggerebbe se molti corsi fossero tenuti in inglese? Parlo soprattutto delle facoltà scientifiche, ma non solo, penso per esempio anche alle facoltà nelle quali si studia archeologia, tanti archeologi da altri paesi verrebbero a studiare in Italia, che è il terreno più fertile per questo tipo di studi, se le lezioni si tenessero in inglese. Che ne pensa? Questo è stato un tema che, quando io sono stato recente alla conferenza dei rettori, abbiamo lungamente affrontato e poi abbiamo in realtà anche parzialmente risolto. È chiaro che il livello di internazionalizzazione dei nostri atenei deve aumentare, questo per due motivi: da un lato perché ci dà una possibilità di attrazione maggiore rispetto a un mercato internazionale che richiede tanta formazione superiore. L'Olanda è un caso, ma ci sono anche altri casi di paesi che sono fortemente attrattivi. Dall'altro anche perché i nostri studenti si debbono abituare sempre di più a una formazione con standard internazionali, perché il mercato del lavoro è diventato un mercato globale. Sicuramente incrementare il numero e l'offerta in inglese è importante, gli atenei italiani lo stanno facendo. Il caso del Politecnico di Milano è stato un caso in cui si contestava l'obbligatorietà di tutti i corsi in inglese, infatti poi si è trovata una soluzione che diciamo contempera anche la possibilità che alcuni corsi siano in italiano, e quindi io credo che questo è uno delle tappe che noi dobbiamo fare per una maggiore internazionalizzazione del paese e della nostra università. Nelle aree umanistiche però dobbiamo anche ricordare che spesso dall'estero si viene in Italia per studiare in italiano, perché l'italiano è una lingua importante negli studi nell'ambito delle aree umanistiche. Quindi io credo che questo tema non debba essere affrontato in maniera ideologica, ma in maniera pragmatica, cioè noi dobbiamo introdurre i corsi in inglese laddove questi siano importanti e significativi, sia per la tipologia dei saperi che vengono insegnati, sia per la composizione di quelle che sono le classi degli studenti. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Abbiamo Debora da Milano. Buongiorno Debora. Sì, buongiorno. Io volevo intervenire su un argomento citato prima, cioè sull'aspetto delle università nei centri, nelle zone più interne, quindi non nelle università più importanti. Si faceva giustamente un discorso di dare la possibilità, dare pari opportunità a tutti di formarsi, sacrosanto diritto, giustissimo. Però forse bisognerebbe anche pensare al fatto che poi alla fine non è realmente così, in quanto chi si forma nei centri minori indubbiamente ha meno opportunità di trovare lavoro e di trovare lavoro di qualità, soprattutto nella stessa area, ma non soltanto nella stessa area. La stessa università fatta in un centro minore, e non so, penso a una facoltà di economia fatta nel centro minore e una facoltà come la Bocconi, danno sicuramente possibilità diverse alle persone che si formano. Questo è un tema da tenere in considerazione. Mi chiedo se forse il fatto di avere tante università piccole anche in centri minori non sia negli ultimi anni stato anche una questione di business, di voler sviluppare per forza delle università che magari erano distribuite in modo diverso, in modo da attrarre persone e quindi creare poi tutto un indotto dal punto di vista però business. Bel tema, bel tema Deborah, bel tema soprattutto quest'ultima osservazione. Manfredi, che dice? Ma guardi, diciamo, noi l'Italia è il paese dove c'è l'università più grandi del mondo. Io ricordo che, diciamo, io sono stato rettore fino all'altro giorno dell'Università di Napoli, che aveva 80.000 studenti. La Sapienza c'ha più di 100.000 studenti, la media delle grandi università internazionali c'ha 30-40.000 studenti, cioè siamo quindi, noi non siamo, siamo un paese dove abbiamo avuto il problema dei megatenei più che il problema dei piccoli atenei. È chiaro che l'osservazione che è stata fatta dalla rete ascoltatrice è importante, che noi dobbiamo garantire sempre qualità e opportunità. E io credo che questo possa essere risolto anche con un sistema di reti di università che, mantenendo la loro collocazione territoriale, possono in un certo senso garantire una circolazione degli studenti, una circolazione dei docenti, fare in modo che questa integrazione garantisca uno standard di qualità media-alto. Poi è chiaro che ci sono gli atenei che sono eccellenti in alcuni settori, altri che ne sono eccellenti in altri, questo è normale, deve essere sostenuto, deve essere favorito. Noi dobbiamo però mirare, oltre che all'eccellenza, che è estremamente importante, anche a una qualità media diffusa. Maria. A proposito di interazione e integrazione, noi in Italia appunto viviamo forse, anzi sicuramente, il privilegio di essere il paese con i beni culturali più appetibili e più visitabili. So che lei ha sviluppato un particolare interesse per la scienza per i beni culturali. Ci spiega che cosa significa esattamente e qual è, diciamo, il vantaggio che potrebbe essere portato al nostro sistema universitario dallo studio, per esempio, dei cambiamenti climatici che minacciano i monumenti? Ma diciamo, è indubbio, come lei sottolineava, che il nostro paese, che detiene la maggior parte del patrimonio culturale mondiale e ha una grandissima tradizione di studio e ricerca in questi campi, ha proprio nel settore dei beni culturali, una, sia materiali ma anche immateriali, un grandissimo asset. E questo deve essere coniugato anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie, perché spesso le tecnologie si associano solamente agli oggetti, diciamo, più moderni, alle comunicazioni, ai telefonini, agli oggetti anche di uso quotidiano, mentre invece noi possiamo, e già siamo in realtà leader a livello mondiale dell'applicazione delle tecnologie nel settore dei beni culturali, e questo sicuramente rappresenta già una grande opportunità di formazione, di attrazione di studenti e di studiosi stranieri che possono venire da noi. La separazione tra i saperi, tra i saperi umanistici e i saperi scientifici, è un concetto superato da decenni, e noi dobbiamo essere bravi, perché poi dobbiamo parlare, dobbiamo sapere che, insomma, noi dobbiamo essere consapevoli che noi abbiamo grandi competenze nel nostro paese, dobbiamo essere bravi a coniugare l'innovazione anche con le grandi tradizioni culturali del nostro paese. Questo sicuramente può essere una grande opportunità. Ci sono già degli esempi, molti esempi che sono stati messi in campo in Italia. Io credo che questo è uno dei settori su cui fare investimenti, rafforzare queste competenze e investire sui giovani che vogliono studiare in questi campi, e questo credo che sia una bella opportunità per il paese. Giancarlo da Catania, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, radio conduttore di Radio 24, e buongiorno al Ministro. Auguri per il nuovo incarico. Volevo chiedergli, io ho un figlio che dovrebbe iscrivere a medicina e sentivo parlare della problematica che c'è per la mancanza di medici e sulla questione della missione ai test di medicina. Volevo chiedere al Ministro appunto se per lui era meglio una soluzione di ampliare i posti o l'eliminazione di questi test? Ecco, sapere in poche parole che cosa ne pensa Giancarlo? Ne pensa il ministro? Lo snodo è interessante, innanzitutto ci consente di chiarire ancora una volta che il tema della scarsità di medici è legata soprattutto all'assenza di posti nelle scuole di specializzazione. E questo è un punto. Però più in generale, Manfredi, se mi permette, annetto alla domanda dell'ascoltatore una più in generale sui test d'ingresso, perché ci sono alcune università, se non vado errato la Statale di Milano, che stanno iniziando a introdurli anche per materie umanistiche. Lei che cosa ne pensa in generale? Si possa estendere oppure no? No, allora io le dico, noi dobbiamo garantire l'accesso allo studio a tutte le i giovani che vogliono seguire un loro talento, una loro aspirazione, perché questo è un principio che è sancito dalla nostra Costituzione, ma dobbiamo garantire anche una qualità della formazione, perché chi si iscrive all'università non vuole un pezzo di carta, vuole formarsi, vuole avere competenze, vuole studiare in sedi e con strumenti che siano in grado di dargli una formazione di qualità. Quindi io credo che noi, proprio agendo sulla leva degli investimenti, noi dobbiamo fare in modo di poter dare la massima opportunità a tutti. Il caso della medicina è un caso un po' particolare, perché in Italia noi abbiamo tra i 60 e i 70 mila studenti che ogni anno provano il test di medicina, un numero enorme, e quindi un accesso indiscriminato oggi alla facoltà di medicina sarebbe insostenibile, perché non garantirebbe la qualità dell'insegnamento per nessuno. Io credo che la strada da perseguire in questo momento sia quella di ampliare con investimenti mirati il numero di posti in ingresso. In realtà questo già sta avvenendo, io sono fiducioso che riusciremo anche per il prossimo anno ad ampliare ulteriormente la platea d'ingresso, però garantendo uno standard di qualità. Mi scusi, Manfredi, ma lei in generale è contrario ai test d'ingresso anche in altre facoltà oppure no? No, io sono contrario quando questi diventano una barriera, nel senso che vengono fatti solamente per impedire agli studenti di poter entrare all'università. Diverso il caso di quando è necessario farlo, perché altrimenti non ci sono strumenti, aule, laboratori e docenti che garantiscono poi una qualità dell'intervento, quindi della Ministro, formazione. Come intende raccordarsi con l'omologa ministra dell'istruzione, tenuto conto del fatto che molti docenti universitari, e sarà capitato mille volte di sentirselo dire, sono disperati per per il livello di istruzione che spesso trovano nei loro allievi al primo anno, persino incapacità di scrivere correttamente in italiano, insomma arrivano da percorsi di studio che l'hanno lasciati molto fragili culturalmente, vale per alcuni e non per tutti per fortuna, però che cosa si può fare per fare in modo che chi arriva poi all'università sia in grado di capire che cosa va a studiare, perché spesso non lo sono proprio. Guardi, lei affronta uno, credo, dei temi più importanti che noi oggi abbiamo, che è il tema dell'orientamento all'università. Cioè, noi dobbiamo, questo è uno degli argomenti che insieme alla ministra Azzolina cercheremo di affrontare. Noi oggi abbiamo molti studenti che arrivano all'università con una scelta dell'ultimo minuto, chi sceglie all'ultimo minuto in molti casi sceglie male, oppure non ha poi le competenze adatte per poter accedere al corso di laurea che ha scelto. Noi dobbiamo fare in modo che l'ultimo anno delle scuole superiori sia un anno di orientamento anche per i ragazzi, di integrazione delle competenze, laddove queste competenze per vari motivi sono più deboli, fare in modo che i nostri giovani scelgano prima, si preparino meglio all'università, e in questa maniera io sono molto convinto che si può ridurre uno dei problemi che abbiamo nel nostro paese, che è la dispersione universitaria. Noi abbiamo che tra il 10 e il 15% degli studenti abbandona l'università nel primo anno, che è un numero molto grande. E questa potrebbe essere la via per ridurlo. Dobbiamo salutarla, Ministro, perché siamo veramente in chiusura. Gaetano Manfredi, Ministro dell'Università e della Ricerca, grazie per essere stato con noi. Maria, ci risentiamo domani alle 8:20. Ministro. Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in assistenza e redazione, Margherita Aina e Francesco Ciarafo, i nostri autori. Ci fermiamo, ci risentiamo domani alle 6:30.